San Pietri sulla fascia destra, sulla fascia piannuvolo che beo, è un pannente a San Pietri, sarà per la prossima volta San Pietri. Intanto siamo agli sgoccioli, l'arbitro sta per mandare tutti quanti a prendere un tè caldo e a farsi una doccia e c'è tempo a vedere. Se... Tony, là non eri con sta tromba però, eh! Abbiamo insegnato male! Già, Pasqua, siamo allo stadio! Capito, ma mi tutti in un cazzo, stiamo facendo una cosa seria qua! Buono, ma... Stavamo dicendo, intanto vediamo... Monchi... Tony ha rotto i palli con sta trombetta! Mota rompo! Madonna che sta agendo però! Ha rotto i palli! Siamo allo stadio! Stai detto commenti rotti, niente mia! Dei trombetti tua e dei cose tua! Va, attende! Ma buono! Dolce davanti alla live! E vediamo che scocca il fine primo tempo! Manda tutti a prendere un tè caldo! Intanto vediamo che si sta scatenando. Minacce! Si sta scatenando la rissa. Ma sto merda, guarda sto merda di dolci lui qua. Guarda sto merda. Verde, minacce! E un'altra volta.